Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Listen to the butterfly whose days but number three. Listen to the butterfly. Don't listen to me. Listen to the mind of God, which doesn't need to be. Listen to the mind of God. Don't listen to me. Listen to the hummingbird whose wings you cannot see. Listen to the hummingbird. Don't listen to me. Ciao a tutti. Questo era Leonard Cohen che ci ricorda di ascoltare. Io sono Lollo Cat e questo è Club Chimera, un programma radio dedicato al mondo dei suoni, della musica, dell'ascolto e di tutto ciò che da questi mondi viene toccato più o meno tangenzialmente. Oggi siamo qua con Sonia Garcia, Amazon e Carlitox, le tre artiste del collettivo Sairi. E prima di presentarvi il collettivo e di iniziare le nostre chiacchiere, parto con una delle tracce che mi hanno inviato. Nelle nostre conversazioni ho chiesto loro delle tracce che raccontassero un po' il loro collettivo e la loro esperienza politica, personale, sociale, artistica a riguardo. Quindi iniziamo con Axakan for Pakikineo di Elisa Crampton. Allora, intanto vi ringrazio moltissimo di essere qui e di condividere questo momento di musica e di conversazione. E inizio con una presentazione un po' formale, leggendovi la bio di Sairi, per poi chiedervi cosa ne pensate, di elaborare, di chiacchierare. Sairi è una piattaforma artistica, è un format di eventi curato appunto da Sonia Garcia, Amazon e Carlitos. Ed è una piattaforma che amplifica le pratiche e le voci di artisti di Abya Jala e della sua diaspora. Con sede a Milano, Sairi opera dal 2020 come collettivo, club night e progetto curatoriale, focalizzandosi prevalentemente sulle dissidenze. Sairi si propone come un veicolo per la celebrazione e l'esplorazione delle manifestazioni artistico-politiche, connettendo le comunità attraverso un'azione di ricerca. Qua abbiamo già un po' di tutto, cioè già descrive tutte le vostre anime. E chiederei anche a voi, in parole vostre, di raccontarci che progetto è Sairi, di cosa vi occupate, come è nato, cosa significa Abya Jala, che è un termine che molte persone magari sentono anche per la prima volta. E da qua possiamo iniziare. Grazie per la domanda e per l'invito. Sono Sonia e inizio a rispondere. Che progetto è Sairi? Sairi, come è stato già detto nella bio, nasce come piattaforma e spazio in cui celebrare e connettere, diciamo, esperienze tra persone, artiste di Abya Jala e della sua diaspora, con base appunto a Milano qua. Abya Jala è un termine in lingua Kuna, che è la lingua originaria del territorio di Panama, e indica il territorio del continente latinoamericano. Lo usiamo per appunto in maniera, diciamo, contrapposta all'uso del termine Latino America, che include la parola latino, che questioniamo, diciamo, che non ci piace, per la sua accezione, storia e origine coloniale, e quindi usiamo il termine Abya Jala. Allo stesso tempo non vorremmo partecipare, diciamo, al romanticizzarla, perché insomma, soprattutto magari recentemente esistono tanti utilizzi, no, molto romanticizzati appunto anche di questo termine. Tornando sì a Sairi, nasce il progetto nel 2020, appena prima proprio dello scoppio della pandemia, e come momento appunto di condivisione e come club night principalmente. Non si è, diciamo, circoscritta a questa dimensione celebrativa negli anni, grazie soprattutto alle reti che abbiamo potuto connettere tra di noi, intanto, in primis tra noi che organizziamo, cioè, Sairi siamo appunto in tre, nonostante all'inizio fossi, cioè, è stato progressivo, diciamo, questa rete, e credo che questo lo renda, almeno per me, particolarmente prezioso, cioè il fatto di aver potuto intanto trovarci noi tre qua a Milano e costruire insieme e continuare questo percorso iniziato nel 2020 e parallelamente a questo estendere, diciamo, questa rete a appunto le persone con cui collaboriamo sia in città che in Italia che, diciamo, nella diaspora appunto di Abya Jala. E quindi, tra l'altro, esattamente oggi son passati 5 anni dal primo evento. Esattamente oggi? Sì. Wow. Era il 15 febbraio. Canonico. Sì. Non fatto apposta. Non fatto apposta. E vabbè, potrei continuare, però... Io mi piacerebbe chiedere, uscendo già, scusate, dalla scaletta che c'eravamo un po' sistemate... Cosa intendi per romanticizzazione del termine Abya Jala? È più un discorso che parte anche dai rapporti di potere, diciamo, delle varie esperienze legate al territorio latinoamericano. La stessa diaspora, essendo collocata in un altro territorio rispetto a quello latinoamericano, gode di molti privilegi dal punto di vista anche economico, geopolitico, e quindi non è tanto forse non è solo il termine abeiale a essere romanticizzato, spesso è la stessa esperienza diasporica, cioè in relazione all'origine che è romanticizzata. E questo è un tema appunto di discussione costante all'interno delle comunità diasporiche, no? In relazione a quelle legate al territorio. E io lo sento vicino alla mia, in particolare di esperienza, proprio perché sono nata e cresciuta in Italia, e quindi è, insomma, un argomento che, insomma, tenevo a precisare, e di cui parliamo spesso anche tra di noi. Quindi sembra, correggimi se sbaglio, ma più non una questione di dare troppa importanza a un'essenza che, esatto, forse neanche esiste, ma piuttosto di condividere, sì, diverse esperienze. Esatto, proprio perché il focus sull'essenza e sul mantenimento di un'essenza fantomatica diventa molto limitante, molto escludente, e dappertutto, cioè in ogni, su più livelli, secondo me, legati alle migrazioni, alle diaspore, appunto. E vabbè, è un argomento anche questo molto ampio. Uno dei motivi di cui hai parlato per la nascita del progetto è anche quello di portare un discorso politico diverso in una città come Milano, che poi si estenda anche oltre a questa città. Quindi volevo chiedervi qual è il portato politico che cercate di creare, come si può esprimere attraverso la musica, un po' di riflessioni. Magari se posso aggiungere qualcosa, certo. Io. Innanzitutto grazie mille per averci invitato. In realtà sono, cioè, molto felice di condividere questo spazio con voi e questa esperienza. E ancora di più, cioè, sapendo che sono già 5 anni proprio oggi, quindi è, cioè, molto bello, davvero. E su questo magari volevo dire qualche parola prima, un po' per posizionarci, diciamo, perché poi il termine politico magari può essere anche molto rischioso. E io lo vedo almeno come un tipo di produzione culturale, no? Cioè, alla fine, qualsiasi tipo di produzione culturale non è neutrale, ha un discorso politico visibile o invisibile, e quindi, vogliamo o non vogliamo, noi ci posizioniamo anche politicamente con quello che facciamo, no? Sia di forma discorsiva come adesso, ma anche di forma più pratica, no? Diciamo con la musica che noi suoniamo, oppure con le persone che noi invitiamo, come noi ci presentiamo, no? Negli spazi, anche a livello di estetica, a livello personale, cioè tutto ha un discorso politico in sé. E quindi inevitabilmente penso che questo progetto comunque abbia un discorso politico. E se posso parlare anche dalla mia esperienza personale, io faccio parte di Sire in realtà dall'anno scorso, però sono qua a Milano dal 2019, e quindi ho conosciuto, diciamo, l'esperienza prima di far parte. E quindi da miei occhi, cioè io vedevo questa realtà anche come una cosa molto bella, perché sentivo che riconosceva appunto quello che ho detto prima, no? Che quello che tu fai non è neutrale, ha un discorso politico, e dialogava, diciamo, con... se posso dire, meglio questionava alcune cose, no? E portava avanti tipo una contrapposizione a narrazione più mainstream, no? In cui io mi ritrovavo. E detto questo, diciamo che quello che mi ha avvicinato di più, no, a Sairi, a quello che fa, al tipo di cultura, diciamo, che porta avanti, e penso anche che sia molto importante una città come Milano, diciamo, che capitalizza su produzioni culturali mainstream, no, principalmente, e quindi in realtà che portino avanti un tipo di narrazione, un tipo di discorso politico, diciamo, non mainstream, o che cerca di questionare certe cose, diventa anche necessaria in un contesto urbano come questo. Adesso poi ritorniamo su Milano. Intanto comunque trovo molto interessante, anche un po' riallacciando al resto dei discorsi che sto cercando di portare avanti in questo programma, trovo molto interessante che tu abbia parlato di produzione culturale non neutra e che viene fatta attraverso i vostri posizionamenti, attraverso come vi presentate, attraverso i discorsi che si fanno, attraverso la produzione musicale. E, è anche bello sapere o rendersi conto di quanto la musica possa creare dei discorsi politici senza appunto verbalizzarli, ma che solo, anche appunto essendo progetto curatoriale, la scelta di tracce, di come metterle insieme, di chi chiamare, è tutto una produzione culturale che va oltre, o forse semplicemente in modo diverso, ai discorsi a parole. E, a riguardo, direi che può essere un buon momento per partire con una seconda traccia, che è Veneca 3000 di Yahaira Labeyaka, e di cui vi leggo anche una traduzione del testo fatta da Carlitox, per appunto capire cosa ci sta raccontando questa traccia. Il testo recita così: faccio paura. Paura, come una pistola carica che ti punta dritto alla testa ma non spara. Sono così perché non ho avuto altre scelte. Sono nata povera, nera, veneca, e dentro di me vivono le froce. Ma sono forte, forte come il primo sorso da una bottiglia di anice, o come l'odore di benzina, asfalto e piscio che senti quando sei stesa a terra in mezzo a una sparatoria. Ma sono anche morbida. Morbida come una licra stampata appena comprata, o morbida come la coda di una gatta che dorme sui tetti di zinco. I cani le abbaiano, sanno che non è di lì. Sono Veneca, Veneca 3000. Magari chiedo a Carlitox di spiegare il termine Veneca per chi non lo conosce, prima di far partire la traccia. Certo, certo. Sì, Veneca vuol dire, è praticamente un termine usato da persone non venezuelane per riferirsi alle persone venezuelane. Quindi un termine che ha una connotazione negativa, diciamo, verso le persone venezuelane, però che comunque questo artista, Yahaira, lo riprende, diciamo, e un po' cerca di rivendicarlo, no, attraverso questa traccia, diciamo, è quello che fa lei. Miedo como una pistola llena que te apunta directo a la cabeza y no dispara. Soy así porque no tuve otras opciones. Nací pobre, negra, veneca, y en mi vive maricones. Porque soy fuerte, fuerte como el primer trago de una botella de anís, o como el olor a gasolina, asfalto y pipí. ¿Qué sientes cuando estás tirada en el piso en medio de una balacera? Pero también soy suave, suave como una licra estampada, suave recién comprada, o suave como la cola de una gata que duerme en los techos de zinc. Los perros le están ladrando, saben que no es de ahí. Soy Veneca, Veneca 3000. Soy Veneca, Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Veneca 3000. Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Veneca 3000. Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Veneca 3000. Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Soy Veneca 3000. Veneca 3000. Parlava prima di Milano e della necessità ma anche delle difficoltà di iniziare a portare avanti un progetto del genere in questa città che, come dicevi, strizza continuamente l'occhio al capitalismo, a un certo modo di fare cultura. Quindi mi viene da chiedervi da dove è nata l'esigenza di aprire un progetto del genere a Milano? Com'è l'esperienza di portarlo avanti? Quali spazi di resistenza e di dissidenza avete trovato che sono ancora aperti, forti, in cui si riesce ancora a stare, a combattere? Un po' l'esperienza di questa città nello specifico. Io volevo magari un po'... Cioè, collegato a questa domanda, ma anche alla traccia, no? Mm-hmm. Volevo dire un paio di cose. Comunque questa traccia è stata fatta da Jahaira e Genosidra, che è un altro artista colombiano, adesso base a Barcellona. E Jahaira è una delle mie idole. e questa traccia sento che cioè mi tocca personalmente, ma anche sento che fa parte di questo discorso, no? È anche un po' dell'essenza, quello che parlavamo prima di Sairi, perché tocca un po' il passato ma anche il presente, no? E anche il futuro. Il passato nel senso che racconta appunto una realtà, un percorso di vita di una persona che magari cresce in un contesto di molta tensione socio-economica, politica, e di una persona maricona, no? O una persona queer, una persona frocia, che sperimenta quella tensione, quella violenza, diciamo, ogni giorno, e parla anche di diaspora, no? Di diaspora latinoamericana in questo caso, perché Jahaira è anche diasporica, lei è venezuelana ma adesso ha base Colombia, e parla appunto della tensione che lei ritrova in un contesto ostile, diciamo, e io mi ritrovo molto con quello, no? Anche per avere un background diasporico, anche io. E appunto sento che tocca anche il futuro per la sonorità, no? Perché appunto cioè, è una proposta molto, molto forte, e penso si colleghi abbastanza bene con quello che dicevamo prima, no? di un tipo di produzione culturale, di proposta culturale contemporanea, che appunto è contro, diciamo, movimenti o sonorità anche mainstream. Se posso aggiungere una considerazione, adoro tantissimo che tu abbia parlato di passato e futuro, perché prima di conoscervi personalmente era comunque una sensazione che io avevo venendo ai vostri eventi, alle vostre serate, ai vostri progetti. Proprio si sentono le tantissime anime e sfaccettature di Sairi, e si sente quanto queste anime e sfaccettature, anche proprio nelle sonorità, hanno un passato e vanno verso un futuro. È proprio una cosa, secondo me, molto evidente nel vostro progetto. Ci ricordi la domanda di nuovo, per piacere? Riguardo a Milano, come è stato iniziare qua, come andare avanti qua, come vi vedete? No, vabbè, magari too much. Del futuro, esatto, appunto. Esatto. Vabbè, com'è stato iniziare? Cioè, io e Suana ci eravamo appunto già dal 2020, poi in realtà abbiamo iniziato ufficialmente insieme a fare Sari dal 2021, però eravamo presenti entrambe anche nel 2020. È stato difficile per i motivi che dicevamo prima, riguardanti la città, gli stessi spazi che magari offrivano già un'alternativa, tra virgolette, legata all'esperienza del clubbing, delle serate, come ogni spazio anche lì indipendente, sempre tra virgolette, avevano problematicità, e in più c'è stato il Covid, quindi l'esigenza era quella comunque di ritagliarsi un piccolo spazio, e c'erano molte avversità, ci sono tuttora. La differenza, secondo me, l'hanno fatta le reti che abbiamo potuto tessere prima di tutto tra di noi. Cioè, non è stato, ci sono una serie di gag anche legate a come abbiamo iniziato a fare Sairi insieme con Giovanna nel 2021. Cioè, non ci eravamo capite che avevamo, insomma, entrambe voglia di lavorare insieme, e quindi ci abbiamo messo un anno per farlo. Però a quel punto, dopo quell'anno, siamo andate un po' più spedite, credo, ma comunque a un ritmo diverso da quello che la città in realtà richiede e normalmente offre. Cioè, per i primi anni, credo, 2022-2023, riusciamo a fare uno, al massimo due, ma tuttora non facciamo serate continuamente per una questione di risorse, E anche dal 2024, appunto, aver avuto questa fortuna e questa benedizione di lavorare insieme a Carlitox è stato un'ulteriore evoluzione, appunto, del progetto, anche in termini di divisione dei compiti, e anche di semplicemente distribuire, conoscere meglio anche le skills di ognuna. Cioè, magari abbiamo le nostre fatiche, noi, che ne so, comunicative, organizzative, e in tre, cioè, una cosa appunto di cui mi sento molto grata è di riuscire comunque a bilanciarci meglio. E le avversità esterne restano abbastanza le stesse. La vera forza, appunto, sono queste collaborazioni nuove che nel tempo siamo riusciti a creare. Gli spazi con cui, gli spazi e le persone e le realtà con cui ci siamo trovate sicuramente meglio sono quelle, appunto, di nuovo indipendenti, con cui c'è una condivisione di valori, quindi magari spazi occupati, autogestiti. Credo che la difficoltà che comunque riscontriamo più spesso è quella legata alle risorse, che magari questi spazi con cui c'è una piena condivisione di valori lo stesso hanno, cioè la precarietà economica che è un problema un po' distribuito, no? E quindi da lì magari le decisioni aprire collaborazioni anche con magari altre realtà che operano anche in maniera diversa dalla nostra, sempre valutando di volta in volta i casi e diciamo cosa i punti in comune, perlomeno. Mm-hmm. Ma anche portando, comunque parlando tra di noi, questionando ciò che, appunto, ciò che ci piace e ciò che non ci piace. E non so, poi Vabbè, questo era quello che mi veniva in mente da dire. Ma mi hai fatto venire in mente il commento divertente, stupido, il detto in due amore in tre è festa, quando hai citato dell'ingresso di Carlitos, che è bello però perché rimanda proprio all'idea della rete e dell'incontro tra persone, appunto, in una città che gli spazi ne ha, ma non tantissimi, le risorse mancano sempre. È bello sentire come l'anima di una resistenza, di una dissidenza, ma anche di uno stare insieme, semplicemente di un riuscire a stare bene insieme, rimanga in una rete di persone che si tengono a vicenda. Sì, allora, per me, appunto, ho iniziato a suonare venendo dal Brasile, come un modo di riconnettermi col mio passato, e in questo percorso mi sono sentita molto sola, e per fortuna ho incontrato persone come Sonia, Carlitos e tanti altri che condividevano un'esperienza simile alla mia, e con questo abbiamo fatto forza, no? E trovare questo punto di incontro è stato molto prezioso per me, con tutte le sfide che vengono, no? Appunto, di muoversi negli spazi, in un ambiente come Milano, è molto complessa, ma credo pian piano, appunto, creiamo connessioni sempre più forti con realtà di persone che hanno vissuti simili, no? E appunto mi emoziono perché questo giorno è stato il primo giorno che abbiamo fatto un back to back insieme, io e Sonia. E ho portato una traccia non a caso, che ho suonato la prima volta a Sairi nel 2020 al Macao, e volevo parlare un po' di questa traccia, ve la faccio sentire a breve. Si chiama Tierra Maya di Inti Nahual. Thank you. Allora, questa traccia si chiama Tierra Maya di Inti Nahual. È stata prodotta da un producer messicano, ricostruendo alcuni miti degli Aztechi. E questa civiltà era molto molto avanzata e hanno prodotto arte di un gran livello, è altamente qualificata e sensibile, e così come molte altre è stata distrutta con l'arrivo degli spagnoli. E quello che è stato poi lo sterminio delle popolazioni indigene e l'inizio del progetto di colonizzazione. E per ritornare a noi, questa traccia l'ho suonata nella prima festa di Sairi e ricordo che dietro di noi c'era un video di statue di colonne che cadevano, che è stato un video fatto da la Niña Jacaranda. E secondo me è questo un po' l'emblema di Sairi alla fine, che racchiude un po' tutto il senso della nostra serata. Creare uno spazio dove attraverso l'arte si possa raccontare e tenere viva la memoria in celebrazione. Molto bello. Se posso, vorrei dire due cose su come si inserisce il progetto in questa città, che ritengo particolarmente importanti per me. Il primo è che Milano, essendo una città vetrina come lo è, si sfrutta regolarmente, no, della produzione delle comunità BIPOC, delle comunità queer, no? Senza valorizzare veramente, no, quello che viene fatto. E Sairi si inserisce appunto in questo contesto di ipercapitalizzazione di quello che viene fatto, prodotto. E per la prima volta, quando ho visto il progetto, sto parlando 2019-2020, anche ho visto un progressivo, diciamo, cioè una scena che diventava progressivamente più debole, grazie anche a tutte queste politiche, no, di pulire la città, no, di decoro, no? E quindi la scena indipendente veniva ogni volta, no, più, cioè diventava più debole. E poi anche per tutti questi discorsi, no, delle risorse, che non ci sono risorse per supportare, no, una scena indipendente, che poi diventa, cioè, fa il lavoro ancora più difficile, no? È più frammentato, purtroppo. E quindi io ho visto quello, no? Che questa realtà si inserisce in un tessuto comunque debole grazie a questa struttura, no? Del sistema città Milano, ma anche internazionalmente, no? Essendo Milano anche riconosciuta, cioè, tra virgolette, no? Come una città creativa che capitalizza su questo, no? Che è proprio un paradosso. E poi l'altra cosa che penso sia molto importante è che comunque Milano è una città che storicamente è casa di una diaspora internazionale che da anni storicamente ha vissuto qua e che produce progressivamente cultura, no? Cioè sonorità, festività, incontri, arte, cibo, cioè comunque c'è. Storicamente c'è sempre stato, no? Però che è una produzione che purtroppo, di nuovo, cioè, essendo una città vetrina che capitalizza su prodotti mainstream, viene invisibilizzata, no? E non valorizzata. fino a quel momento in cui viene brandizzato, no? come cosa in cui si può avere un profit, no? di questo. E quindi volevo fare appunto questo punto perché diciamo che Sairi non è una cosa nuova, cioè non è un discorso nuovo, è semplicemente una piattaforma come c'è scritto, come l'abbiamo detto, no? Che un po' si inserisce, non so se dirlo a metà tra questo, più verso diciamo le comunità preesistenti, direi, però che riconosce che c'era comunque prima, no? un tessuto vivo, storico nella città di Milano, che non viene riconosciuto e viene invisibilizzato anche sistematicamente. Sì, e grazie al quale diciamo ne facciamo parte grazie a questo e grazie a questa presenza storica appunto a Milano, ma anche in Italia, per dire. C'è anche possibile muoverci in questo modo e rivolgerci, cioè, e concordo con con quello che dice Carlito, nel senso che non stiamo inventando nulla da zero, cioè, è un flusso e la ricchezza sta nel appunto interscambiare e interdipendere tra queste comunità e reti. Andrei avanti con la prossima traccia che avevamo in programma e poi avrò un'ultima domanda per voi e poi ascolteremo ancora un po' di musica che ci racconterete delle tracce che avete portato. Intanto ascoltiamo Picaflor, sempre di Elivia Crampton, il DJ edit di Base Ciro Lanzamento. Che il momento del diciamo produrla aveva il nome di Elisa Crampton e ce l'ho molto a cuore perché un po' combina degli animi, non so, comuni anche dentro Sairi, quindi cioè il sample vocale che è di un di un cantante storico peruviano di huayno, che è un genere tradizionale, cioè popolare andino, e quindi è una canzone molto antica, cioè vecchia, degli anni 60 circa, e, che Sukimamani ha campionato e ha unito a una base di fan carioca, quindi la metto molto spesso. E basta, questa era una nota che volevo, cioè, che era su questa traccia in particolare. Mi fa pensare tanto anche a Juana per via del fan carioca, e insomma mi piace ascoltarla, mi piace suonarla, e sono molto fan di Sukimamani, quanto fine. Che infatti abbiamo avuto anche in apertura. Esatto. Va bene, io avrei l'ultima domanda per voi, poi appunto avremo ancora degli ascolti e dei vostri racconti. E la mia domanda riguarda un po' il... siccome adesso abbiamo parlato molto di politica e di rete sociale, riguarda come tutto questo entra anche nel momento in cui gli eventi che organizzate sono delle serate, degli eventi di club night, gli eventi di andare a ballare. E l'ultima puntata di Club Chimera si è proprio parlato, cambiando completamente genere, dell'inizio della musica techno a Detroit, e anche lì proprio parlavamo di tutto quello che c'è intorno l'atto di andare a ballare. Parlando con voi in un altro momento mi avete detto che in effetti durante le vostre serate non si tratta solo di musica, non si tratta solo di clubbing, non si tratta solo di estetica. E è una bellissima cosa da dire riguardo a una festa e agli immaginari che quella festa può aprire. E quindi volevo appunto chiedervi qual è la vostra idea di festa e quali immaginari, quali discorsi, quali pratiche questo può aprire. Okay. Per me è comunità, famiglia, cioè è creare rete, stare con le amiche, no? Anche un spazio, quando si può, anche slegato un po' delle dinamiche profit no? che caratterizzano Milano. Però appunto per me proprio il focus è comunità, un spazio per creare reti, per dare voce, non dare voce, essere una piattaforma per voci. Principalmente, come dicevamo prima, no? Della diaspora e delle dissidenze, no? Dissidenze di genere, persone BIPOC, eccetera, no? Quindi un spazio appunto per quello, no? per stare insieme, per sentirsi bene, per festeggiare, per un po' dimenticarti un po', no? di dove sei in questa città che ti sfrutta ogni giorno e pensare, no? a futuri possibili, no? Così come di nuovo come Jahaira, no? che per me rappresenta un futuro queer e senza paura, no? E per me un po' quello rappresenta, cioè, questi spazi, questi momenti, diciamo, che si creano. Sono molto d'accordo. E cioè, è vero che al di là di che formato assuma poi magari l'evento, che a volte può anche essere appunto una sessione d'ascolto o anche una chiacchiera, come ora, insomma. A me personalmente, devo dire, negli ultimi periodi, gli ultimi paio d'anni, forse l'ultimo anno, magari mi stava più emozionando appunto un'espressione musicale che anche... cioè, è parallela a quello del club, o diciamo dell'esperienza del club, ovvero... appunto più di ascolto e di intimità. E la scorsa sessione d'ascolto che abbiamo fatto, quando era? A novembre. Primo dicembre, giusto, a Bagnomaria. Sì, sì. È stato... Grazie Bagnomaria. Grazie Bagnomaria. È stato speciale per questo, ma ci sono tante altre occasioni speciali ovviamente, sia per come dicevamo prima, per le energie scambiate internamente a noi con le persone con cui abbiamo collaborato, le persone che abbiamo invitato. E, però sì, magari a me personalmente sarà anche perché sono forse più anziana, cioè mi sto anch'io avvicinando all'anzianità e quindi tipo mi piacciono le cose tipo d'ascolto e sì, un'altra cosa che volevo aggiungere è che non ho prima forse raccontato appunto chi è questa artista Shukimamani Kondori. È una artista multidisciplinare, sì, perché musicista, ma lavora anche con altri medium, diciamo, di arte, Aymara, quindi di questa comunità originaria delle Ande boliviane, e, diciamo che anche lei appartiene a una diaspora, anche lei che si trova negli Stati Uniti, in California, e mi faceva pensare un po', mi faceva ritornare sempre a lei, quello che diceva Carlitos prima su Jacaira, no? Sugli immaginari che connettono appunto le temporalità presenti, passate, future, perché lo stesso lavoro di Shukimamani a me personalmente ha davvero cambiato tanto, da molti anni ormai, però... sia a livello sonoro che di postura e quindi ecco, cioè avere questa opportunità anche con Sairi di diciamo poterle anche noi sviluppare o comunque muoverci in quella direzione insieme è veramente tanto per me, cioè mi ha, nel senso, ho molta gratitudine, ecco, del percorso e il futuro appunto è sempre interconnesso a quello che c'è stato prima e quindi non è difficile anche fare una proiezione così, però continuiamo a imparare, ecco, e continuiamo anche a trasformarci noi dentro il collettivo o anche fuori e questo... E fare rete è stato appunto una salvezza in questo senso, quindi... grazie. Bene, grazie delle condivisioni. Arriviamo agli ultimi momenti di ascolto. Io avevo chiesto a ciascuna di Sairi di pensare a una traccia che le riconnettesse al collettivo. Abbiamo già sentito Tierra Maya di Inti Nawal, di cui ci ha raccontato Amazon. Direi che adesso potremmo partire con Amor por Internet della Las Conquistadoras, che ci ha portato Sonia. We'll be right back. questa canzone è molto iconica per noi da un anno e mezzo circa, anche se è un po' più vecchia. In realtà addirittura è una cover di una canzone originale peruviana, e la cover che quest'anno soprattutto è diventata molto famosa anche su TikTok è di questo gruppo boliviano, Las Conquistadoras, e l'abbiamo conosciuta un anno e mezzo fa quando abbiamo invitato a un evento che abbiamo organizzato qua a Milano un artista di arti performative, coreografa, ballerina, si chiama Sharon Mercado Nogales, è una artista boliviana che in quel momento aveva base a Berlino, e lei fece, insomma, durante un mix che preparò come promo della serata, non era una serata, ha presentato la sua performance di danza e portava anche un workshop di ballo di questa danza che si chiama Tecnocumbia, che è anche un genere musicale, e come promo ha preparato un mix e ha messo una serie di canzoni di cumbia, ciccia, boliviana, tra cui questa, ed è diventata un po' non lo so, cioè si crea, diciamo, ci piace e io la metto abbastanza spesso e mi fa pensare appunto a lei e alla realtà più specifica andina, della diaspora andina, e poi anche appunto parla di amore per internet, cioè, tramite internet, e insomma significa molto. Grazie. E arriviamo allora all'ultima condivisione da Carlitox e ascoltiamo Analcant di Fretch per Chiana. We'll be right back. quando parlo delle mille anime di Sairi non lo faccio a caso, direi che si può anche sentire dalle tracce che avete scelto per questa puntata e che sicuramente sentiremo dopo nel DJ set. E lascio la parola a Carlito. Iconic questa traccia. Poi hanno il conto tipo. Iconic. No, tra l'altro questa traccia che è stata fatta da Chiana e Preg, tutti e due artisti peruviani. È stato anche il primo premiere di Sairi. Ho visto adesso la data, è a febbraio, 9 febbraio tipo, quindi un mese speciale. E che fa parte di questo label chiamato Mosquitos y Ogros, e quindi andate a trovarli. No, una traccia che a me, cioè, ho amato dall'inizio, anche prima di far parte di Sairi, perché di nuovo per me, cioè, rappresenta un po' il futuro, cioè proprio tipo questa unione tra, in questo caso, di sonorità, no? Questa unione tra suoni, tra virgolette, tradizionali, ma anche suoni contemporanei, più elettronici, quasi techno, diciamo, che appunto ti sveglia qualcosa dentro, no? E appunto diciamo che è il motivo per cui l'ho scelta. E poi volevo solo dire una cosa, che prima, cioè, ringraziarti per lo spazio. E penso che sia un esempio importante di quello che un po' dobbiamo continuare a portare avanti, cioè quello lo dicevano anche Joan e Sonia, di creare rete, di fare cose insieme, specialmente tra iniziative, gruppi, collettivi queer, BIPOC, in questa città. E niente, solo volevo anche approfittare lo spazio un po' per ringraziarti, per fare proprio tipo un focus sull'importanza e la necessità di queste rete. Un grazie enorme a voi. E finiamo allora con un'altra ricorrenza, non esattamente di oggi, ma quando ci siamo incontrate per parlare di come strutturare questa puntata, mi avete raccontato che Como la Flor di Selena Quintanilla è stata l'ultima traccia suonata al vostro primo evento, ma anche l'ultima traccia suonata da Carlitox al vostro ultimo evento sabato scorso, corretto? E quindi ho pensato, senza sapere che è anche il quinto anniversario, ho pensato che potesse essere una buona idea finire anche oggi con Como la Flor di Selena Quintanilla. Grazie, grazie, grazie. Grazie a te. Grazie. Grazie anche a voi. We'll be right back. Thank you.